Gentilissimi ascoltatori di Radio San Giuseppe, ben ritrovati a tutti sulle care frequenze della nostra web radio per una nuova serata in compagnia del nostro amatissimo San Giuseppe, questo straordinario e grande santo, ma per tanti aspetti, come vedremo questa sera, anche molto comune, diciamo così, nel senso che molto vicino a un tipo di vita, a un modello di vita che caratterizza la stragrande maggioranza dei fedeli cattolici. Quindi, se sotto certi aspetti è molto molto in alto, quindi molto difficilmente raggiungibile nelle vette della sua santità, però per altri aspetti è anche molto molto vicino e quindi molto alla portata e quindi molto importante tenerlo presente, oltre che come potentissimo intercessore, anche come esempio, no? Qui questa sera vorrei meditare un pochino con voi, aiutandomi e citando anche ampiamente Ampistralci, scusate, di una omelia di San José María Escrivá. Se vi ricordate, l'abbiamo già incontrato, il pensiero di questo grande santo su San Giuseppe, santo di cui lui era particolarmente devoto proprio per questa sua, come dire, ferialità, no? Ricordate che San José María Escrivá, nel suo tentativo di proporre un cammino di santificazione adatto soprattutto ai laici che vivono nel mondo, ha fondato l'Opus Dei. Adesso io non voglio assolutamente entrare nel merito, va bene o non va bene, le chiacchiere che si stanno sull'Opus Dei, eccetera, no? Già a suo tempo dissi, Opus Dei o non Opus Dei, il problema è questo qui: i laici hanno necessità di trovare degli strumenti di santificazione adatti al proprio stato di vita, come già diceva San Francesco di Sales, che abbiamo recentemente festeggiato nella liturgia lo scorso 24 gennaio. E un laico si santifica in maniera diversa da come si santifica un prete, da come si santifica un frate, da come si santifica una suora, un monaco o cose di questo genere, proprio perché vive una vita comune. Per cui è fondamentale che un laico si santifichi da laico, ecco, e non da prete o da religioso o cose di questo genere, no? Questo è il tentativo che fece San José María Escrivá. E sotto questo punto di vista, ripeto, la figura di San Giuseppe, se da un lato giunge ad altezze di santità molto molto alte, però dall'altro ha condotto una vita, come vedremo subito, assolutamente normale, comune. E quindi, essendo diventato un grandissimo santo con una vita normale, comune, di uomo comune, di padre di famiglia, di lavoratore che si guadagna la vita con lo sforzo delle proprie mani, diventa uno straordinario motivo per noi, no? Di riflessione e di gioia, no? Allora, San José María Escrivá distingue un pochino il suo discorso partendo dalla Sacra Scrittura e poi cercando di cogliere alcuni aspetti fondamentali della vita e dell'esperienza di San Giuseppe, no? Chiaramente accentuando in maniera particolare ciò che era, come dire, un pallino di San José María Escrivá, che è anche un po' il carisma a cui ha cercato di dar vita, che è appunto la santificazione nel lavoro e del lavoro. Allora, noi per quanto riguarda, come dire, dati certi di San Giuseppe dalla scrittura non abbiamo un granché, perché sappiamo due genealogie riportate da Evangeli, che sono però abbastanza incerte, poi non si capisce bene se sono riferite alla Madonna o all'arco genealogico di San Giuseppe. Quindi non sappiamo neanche, per esempio, quale fosse la città natale di San Giuseppe, cioè se fosse Nazareth, per esempio, oppure se fosse Betlemme, dove si era recato per il censimento, perché comunque sarebbe dovuto recarsi lì per il censimento, perché Betlemme era la città di Davide e quindi della tribù di Giuda, a cui senza dubbio sia San Giuseppe che la Madonna appartenevano. Da quello che possiamo capire dai vari passaggi del Vangelo, sappiamo che non era un uomo ricco, ma era un artigiano, che si guadagnava da vivere, come scrive San Paolo, con il sudore della propria fronte. E sulla base, diciamo, di questa scorta, subito i padri della Chiesa individuarono, il falegname come lavoro proprio di San Giuseppe. Addirittura c'è San Giustino, qui citato da San José María, che racconta, parlando della vita di lavoro di Gesù, dice che fabbricava aratri e giochi. Ecco, forse proprio per questa particolarità, no? Sapete che i giochi erano fatti di legno, ma c'era anche del ferro, no? E quindi per questa particolarità, forse, congettura San José Maria, San Giuseppe è chiamato da Sant'Isidoro di Siviglia, altro grande autorevole padre della Chiesa, Fabbro. In ogni caso, Fabbro o falegname, o tutti e due, cosa più probabile, era un operaio che lavorava al servizio dei suoi concittadini con un'abilità manuale derivantegli da lunghi anni di sforzo e di sudore. Dai Vangeli risalta una grande personalità umana di San Giuseppe. Numero uno, una straordinaria calma e dominio di sé. Immaginate come reagisce dinanzi alle varie prove a cui viene sottoposto, no? Cosa che manifesta una straordinaria fortezza, perché rimanere calmi dinanzi alle situazioni difficili vuol dire avere una fortezza fuori del comune. Secondo, non era un uomo pavido, quindi era capace di dominare la passione della paura e quindi non farsi prendere dal panico. Tutte virtù importantissime per noi figli di Dio, eh? Secondo, aveva un atteggiamento propositivo nei confronti dei problemi, quindi si metteva tranquillo ad affrontarli serenamente per risolverli, superandoli, quindi senza lasciarsi, come dire, mettere sotto scacco dalle circostanze avverse o dai problemi della vita. Non solo, accetta, quindi in maniera collaborativa e con grande senso di responsabilità i compiti che gli vengono affidati, soprattutto insomma i due compiti più straordinari che sono stati quelli di essere il padre putativo di Gesù e lo sposo di Maria Santissima e quindi contestualmente il custode dell'uno e dell'altra. San José Maria prende le distanze e su questo punto di vista io mi sento di accordare con lui, anche questo mi sembra che l'abbiamo accennato durante le nostre precedenti conversazioni, da una certa, da un certo modo tradizionale di raffigurare San Giuseppe come una persona molto anziana, quindi molto molto più grande di Maria, no? Riconosce San José Maria che questo certamente ha come merito la buona intenzione di salvaguardare la verginità perpetua di Maria, la sua purezza assoluta. Però per certi aspetti rappresenta come una sorta di diminuzione di San Giuseppe, perché, giustissimo rilievo, non c'è affatto bisogno di attendere la vecchiaia o la perdita del vigore virile per esercitare la virtù della castità, perché San Giuseppe l'ha esercitata anche quando era giovane. E questo perché? Perché la purezza non nasce da una incapacità, diciamo così, o da una difficoltà nel sostenere le fatiche, tra virgolette, gli sforzi connessi all'esercizio dell'attività sessuale, ecco, ma nasce dall'amore, ecco. E la forza e la gioia della giovinezza non sono affatto un ostacolo per la purezza, ma anzi, se uno ama, sono una risorsa. E dice anche che chi non è capace di capire tale amore, quindi che amare vuol dire sapere essere puri, vuol dire che sa ben poco del vero amore e che ignora totalmente il senso cristiano della castità. Io anche ieri sera durante l'omelia parlavo insomma dell'essere luce del mondo, c'era cioè il Vangelo di ieri, Gesù dice siete luce del mondo perché tutti vedano le vostre opere buone, no? Le opere buone sono innanzitutto l'osservanza dei 10 comandamenti, tra cui c'è anche il sesto, ecco, e non è affatto vero, citavo, come dire, una sollecitazione venutami tramite Facebook nei giorni scorsi da parte di una persona che dice, sai, stiamo cercando di vivere la castità, però qui tutti dicono che nessuno vive la castità, nessuno tra i giovani vive la castità. Dico, ma chi te l'ha detta questa cosa qui? Dico, io te ne porto quanti ne vuoi di giovanotti, giovani, d'accordo? Nel pieno del loro vigore, nel pieno delle tempeste ormonali, che vivono. Oppure quantomeno lottano, quindi si sforzano con tutte le loro risorse di poter vivere la castità riconoscendone il valore, la bellezza e la bontà. D'accordo? Io che sono un povero prete, ho 40 anni, diciamo che sono anni e anni e anni che vivo serenamente, per grazia di Dio, senza dubbio, la castità, ma come una risorsa bella, ecco, e positiva. Non è che quando uno ha da Dio il dono della castità sta tutto il giorno a pensare lì e sta morendo perché non sa come trattenersi, non sa come inventarsi cose di questo genere. Ecco, noi dobbiamo certamente tenere presente che la condizione dell'uomo è segnata e ferita dalla colpa d'origine, quindi la concupiscenza c'è, ma c'è anche la grazia di Cristo, ragazzi. E ragazze carissimi e fratelli e sorelle carissimi in ascolto, quindi la grazia di Cristo non è acqua, quindi se tu vuoi vivere questo, lo puoi vivere. Ecco, e la cosa grave di oggi, stiamo messi un po' peggio di come sta San José María Escrivá, che è morto poco dopo la rivoluzione del 68, è che molti pensano che questa virtù sia anzitutto arcaica e anacronistica, d'accordo? O che addirittura sia cambiata la morale cristiana, nel senso che ormai i tempi sono cambiati e quindi ci sia stata qualche sorta di adattamento. Ma chi pensa che magari, almeno così sul piano teorico, questo discorso rimane in piedi, lo relega sul piano dell'utopia, tanto queste sono cose assolutamente impossibili da vivere, no? E io so per certo, insomma, anche tra i giovani cominciano a scherzare, a fare le battutine, ma tu secondo te un prete o una suora possono stare tutta la vita così? Magari anche purtroppo, ahimè, appoggiandosi a qualche drammatico e scandaloso fatto di cronaca, in realtà poi non così diffuso e non così frequente, perché poi purtroppo i media, senza voler per questo assolutamente minimizzare o giustificare, ecco, comportamenti che sono comunque disdicevoli quando posti in essere da consacrati, no? Ecco, però sulla scorta di questo, ecco, qualcuno dice, ma vedi, nessuno vive una cosa di questo genere, se anche i preti e le suore fanno queste cose vuol dire che in realtà sono una banda di falsi e di ipocriti, che nessuno vive una cosa di questo genere. Io no, per esempio, ma sono sicuro al 100%, al 100% di non essere l'unico, insomma. Ecco, ma ritengo, come sempre è successo, che la maggioranza dei consacrati riescano ad essere fedeli. Come gli sposi cristiani riescono a vivere la castità, come i fidanzati cristiani riescono a vivere la castità. Ecco, una cosa molto carina, proseguendo, che nota San José María Escrivá, è che il nome Giuseppe in ebraico vuol dire letteralmente Dio aggiunge. Ecco, che significa questo? Fa una bella considerazione, una graziosa considerazione, cioè che alla vita santa di San Giuseppe, che già comunque era un bravo ragazzo, diciamo, no, un bravo ragazzo è un po' poco per San Giuseppe, no? Quindi un santo operaio che si lavorava compiendo tutti i giorni con lo stesso sforzo il suo onesto lavoro, ha aggiunto al Signore, che fa sempre grandi regali a coloro che compiono la sua volontà, una dimensione inaspettata e insospettata, cioè a questa vita umile e santa Dio ha aggiunto la vita della Madonna e quella di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, non facendosi battere chiaramente in generosità, no? E San José María immagina San Giuseppe che fa suo il canto di lode della sua sposa e che dice: guarda, qui a fecit mihi magna, qui potens est, ha fatto cose grandi per me il Signore, perché ha guardato la mia piccolezza, qui a respexit humilitate mancille sue, no? Quindi un uomo comune, ma un grande uomo comune, un santo uomo comune su cui Dio ha fatto affidamento per operare cose grandi. È anche molto importante vedere anche attraverso la vicenda di San Giuseppe la fiducia che Dio ripone nei suoi servi quando gli affida qualche grosso incarico, no? Quindi San Giuseppe, dice la scrittura, che era giusto, grande, ecco, un termine che, diciamo, sintetizza tutta quanta la sua statura morale, no? Giusto è noto perché conosce la Sacra Scrittura, vuol dire servo di Dio per gli ebrei, quindi osservante scrupoloso della legge del Signore, esecutore della divina volontà, sia per ciò che attiene ai doveri verso Dio, sia che per ciò che attiene ai doveri verso il prossimo. Quindi il giusto è colui che vive il comandamento dell'amore di Dio e lo dimostra orientando la propria vita al servizio degli uomini e dei propri fratelli e quindi esercitando anche la carità del prossimo, no? Ora, San José María poi approfondisce ulteriori elementi, no? Le virtù teologali anzitutto di San Giuseppe, no? Quindi la fede, la speranza e l'amore. Vorrei citare adesso qui qualche stralcio dei suoi passaggi, no? Partendo dal fatto che San Paolo dice il giusto vive di fede, quindi San Giuseppe uomo giusto, quindi per poter vivere questa sua encomiabile scelta di essere servo di Dio, ha dovuto percorrere il cammino della fede e vivere nella fede e della fede. Quindi, che significa questo? Che il suo adempimento della volontà di Dio e il suo compimento anche della legge di Dio non era, come per qualche fariseo, formalistico, esterno, estrinseco o di facciata, ma era l'espressione della volontà del Dio vivo in cui lui aveva investito, dandogli, come dice il buon Blaise Pascal, credito al 100%, quindi scommettendo tutto sul Signore. Allora, i padri della Chiesa hanno avuto modo di evidenziare le tante occasioni in cui la potenza e la fermezza della fede di San Giuseppe si mostra e si manifesta, no? San Giovanni Crisostomo, per esempio, riferendosi all'episodio della fuga in Egitto e all'ordine che gli diede l'angelo di fare questo, scrive: al sentire ciò San Giuseppe non si scandalizza e non dice, mi sembra un enigma, tu stesso mi facevi sapere non molto tempo fa che egli avrebbe salvato il suo popolo ed ecco tu adesso mi dici che non è capace di salvare se stesso, anzi addirittura dobbiamo fuggire, intraprendere un viaggio e subire un lungo esilio, ciò è contrario alla tua promessa. Attenzione a questo passaggio, Giuseppe non ragiona così perché è un uomo fedele. Non domanda nemmeno il tempo del ritorno, nonostante fosse rimasto indeterminato, già che l'angelo gli aveva detto, resta là finché io ti dirò, punto e basta. Cosa fa San Giuseppe? Obbedisce, crede e sopporta con gioia questa e tutte le altre prove. Fratelli e sorelle carissimi, qui stiamo in un passaggio fondamentale. Permettetemi anche di dire che la mia povera esperienza di sacerdote ha vissuto situazioni analoghe a quella di San Giuseppe. Allora, può effettivamente sembrare che a volte il Padre Eterno faccia delle cose strane. Cioè, ti dice di fare una cosa e tu hai la certezza morale che è il Padre Eterno che ti ha, come dire, orientato verso fare quella cosa. E dopo un po' di tempo, attraverso fonti altrettanto attendibili, d'accordo? Sembra che ti dica di fare esattamente il contrario. Questa è non so se avete mai fatto caso, cioè qualche tempo prima della fuga, non temere di prendere con te Maria sua sposa, perché quello che viene da lei viene dallo Spirito Santo, concepirà un figlio e tu gli darai nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai suoi peccati. Chiaro? Quindi Giuseppe non era sciocco, no? Capito? Questo è il figlio di Dio fatto uomo. Dice, allora immaginate se si fosse messo a ragionare. Perché c'è un ragionamento tortuoso che è ostacolo alla fede. La fede richiede, come dicevano i padri, un sacrificio dell'intelletto. Cioè che tu rinunci ad andare a scandagliare cose che sono più grandi di te e ti affidi ciecamente sotto questo punto di vista, ai voleri dell'Altissimo. Allora, Erode si mette a fare il matto e l'angelo gli dice vai in Egitto, scappa, altrimenti te l'ammazzano. Immaginate San Giuseppe, ma come l'ammazzano? Ma questo è il figlio di Dio fatto uomo, ti pare che adesso vadrà a permettere che qualcuno l'ammazza? Ma se deve salvare dai peccati gli altri, figuriamoci se non si salva da solo. Avrebbe potuto fare una cosa di questo genere. Ma non l'ha fatto. Non l'ha fatto perché era un uomo di fede. E vedete come la fede porta sempre con sé, questo anche lo scrive San Paolo, la dinamica dell'obbedienza, l'obbedienza della fede la chiama San Paolo. e non si mette a indagare, ma allora com'è, allora qua, allora qua, allora là, allora forse questo non è il figlio di Dio, allora e come facciamo, e perché essendo il figlio di Dio non ci pensa lui a salvarsi da solo, e perché essendo il figlio di Dio non lo fulmina Erode, perché essendo il figlio di Dio non impedisce a Erode di venire a trovare, eccetera eccetera, no? Io anche ogni tanto, io ho sempre detto, e lo ribadisco, questo, su questo sono un grande stimatore di San Tommaso, no? Il Signore, quando noi ci accostiamo a Lui, e del resto questo è stato, come dire, il sogno di tanti filosofi, ed è l'attività che maggiormente nobilita l'uomo, perché l'uomo deve farsi delle domande, deve chiedersi dei perché. Ecco, però ci sono i grandi perché dell'esistenza a cui Dio nella sua rivelazione dà risposte. Questi ci danno una risposta, no? Perché un cristiano che qualcuno gli dice ma tu cosa campi a fare, gli deve saper rispondere. Cioè, perché vivi, gli devi saper rispondere. Un cristiano che dice che a cui viene chiesto in generale perché esiste il male nel mondo, deve saper rispondere. Un cristiano a cui viene chiesto perché c'è la morte, deve saper rispondere, perché sono tutte risposte che la rivelazione ci dà. Però se a me personalmente viene chiesto perché Dio, che ti aveva chiesto di fare questa cosa, adesso sembra aver cambiato idea e ti ha chiesto quest'altra, ecco, questa è una domanda impertinente, cioè non pertinente, perché non si tratta di una cosa, di un principio globale appartenente alla fede in quanto deposito, si tratta di una contingenza particolare appartenente al mio personale itinerario di fede, come dire che si compie dentro la fede della Chiesa, in cui ci sono la risposta ai grandi perché, ma coinvolgendo me personalmente. Allora, la risposta di San Giuseppe, cioè, anche in una fattispecie di questo genere, c'è la risposta generalizzata. Dio permette il male nel mondo perché ne venga sempre un bene maggiore, punto e basta. Quindi lodiamo e benediciamo il Signore e facciamo la sua volontà. Qui si deve fermare il nostro perché, non può andare oltre. Altrimenti pecchiamo contro la virtù teologale della fede. Peccati che non ci si pensa quasi mai, eh? E i peccati contro la fede, la speranza e la carità, del catechismo della Chiesa Cattolica, sono peccati contro il primo comandamento. E non c'è soltanto l'eresia, che è un grave peccato contro la fede, chiaramente, no? O l'apostasia, peggio ancora. L'apostasia è quando, oggi diffusissima, un cristiano che si mette a fare il buddista formalmente pecca di apostasia, cioè abbandona l'unica vera religione rivelata che ha la pienezza della verità e dei mezzi salvifici, che è il cristianesimo nella, come dire, coniugazione tra virgolette cattolica, e abbraccia una religione che, pur non essendo il male assoluto, perché non è cattiva al 100%, è però molto meno di quello del dono che ha ricevuto, no? E quindi chiaramente non è cosa buona che tu vai dall'alto al basso. Ora, qui c'è la prima grande catechesi vivente, no? Circa la fede di San Giuseppe. Ora, San Giuseppe si abbandona senza riserve all'azione di Dio. Quindi il discorso è questo qui: quando arriva una prova, noi dobbiamo immediatamente fare quello che Dio vuole. Evidentemente, così come faceva anche la Madonna, è possibile tornarci pensandoci, ma è molto diverso questo. Vi ricordate quando succedono degli eventi particolari e il Vangelo di San Luca dice: Maria serbava queste cose nel cuore. Maria osservava tutte queste cose, scusate, meditandole nel suo cuore. Allora, certo che San Giuseppe, dopo che è partito, poteva fare la meditazione su quello che è successo. Certo, non solo poteva, doveva fare la meditazione. È la stessa cosa che Dio disse a San Pietro nell'ultima cena, no? Vi ricordate quando San Pietro, Gesù si mette in testa di lavare i piedi a tutti quanti, San Pietro, che capiva il senso di quel gesto, dice: tu, Signore, vuoi lavare i piedi a me? Ma te lo scordi proprio. Cosa risponde Gesù? Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Allora, perché nell'agire di Dio I perché ci sono sempre. Noi non possiamo e non dobbiamo fare due cose. Uno, volerli conoscere prima, perché Dio ci chiede proprio di agire non sapendo il perché. Secondo, non pretendere di conoscerli anche dopo. Ma dopo che io comunque ho fatto quello che Dio mi aveva detto, io posso rifletterci sopra, come faceva San Giuseppe. Qui San José María nota che il patriarca, pur avendo tutto investito nella fede, non rinuncia né a pensare né a far uso della sua responsabilità. Un piccolo particolare, per esempio, no? Quando torna a casa, perché l'angelo gli dice guarda che Erode è morto, nota il Vangelo che tornò per una via diversa da quella consueta, perché comunque era re della Giudea Archelao, e che era il figlio di Erode. Quindi esegue l'ordine, ecco, ma esegue l'ordine anche in maniera intelligente, no? Quindi anche quando, l'importante è che noi seguiamo gli ordini di Dio, d'accordo? Ecco, e poi sicuramente, come la Madonna, ci tornava su, riflettendoci. Questo è importante perché noi dobbiamo e possiamo imparare dalle vicende della vita e anche dalle prove a cui il Signore ci sottopone due cose. Uno, le logiche del cielo, che passano sempre attraverso il mistero della croce. E due, anche il grande mistero del male, a cui purtroppo in parte dal cielo è dato il permesso di agire e di operare per la nostra rovina, e quindi più lo conosciamo e più siamo in grado di fronteggiarlo. Allora, passiamo poi adesso a considerare per esempio la più grande delle virtù teologali, no? Che è la carità. Noi non dobbiamo pensare alla carità in termini di gesti straordinari o di chissà che o di chissà che cosa, no? Cito testualmente cosa dice San José María. L'amore ha necessariamente le sue manifestazioni caratteristiche. A volte si parla dell'amore come se fosse un impulso verso la propria soddisfazione o una semplice risorsa per completare egoisticamente la propria personalità, ma non è così. L'amore vero è un uscire da se stessi, è un darsi. L'amore non è un sentimento. Quindi facciamo sempre molta attenzione, per questo che la tradizione della Chiesa ha trovata la terza virtù teologale, che è poi la più grande di tutte, come ci insegna San Paolo, un nome alternativo, perché noi quando sentiamo dire amore, immaginiamo subito il sentimento, ma la carità non è un sentimento, è un atto della volontà, è una scelta, è la scelta di darsi a Dio e al prossimo. Ora, questa forma di amore porta con sé la gioia. Ma questa gioia, bellissima questa immagine, ha le radici a forma di croce. Ora, finché siamo sulla terra, qui non siamo in paradiso, non ci può essere amore vero senza esperienza di sacrificio e di dolore. Un dolore che si gusta, che è amabile e che è fonte di intimo gaudio, ma non di meno, è un dolore reale, perché quantomeno si manifesta nella necessità di vincere il proprio egoismo, cosa che ci costa, e di prendere l'amore come regola di tutte e singole le nostre azioni. Le opere dell'amore sono sempre grandi, altra grande verità, anche quando in apparenza, cioè in concreto, nel singolo gesto, sembrano apparentemente piccole. E questo perché agli occhi di Dio tutto ha importanza. Allora, ci sono delle azioni che ai nostri occhi sembrano grandissime, che davanti a Dio non contano nulla. Ci sono delle azioni che giudichiamo di poco valore, ma che davanti a Dio sono grandissime. Cioè, se voi leggete le vite dei santi, ci sono state delle suore, per esempio, che si sono santificate, sono state canonizzate. Sapete facendo cosa? Facendo una vita anni e anni a fare le portinaie. Sapete chi è la portinaia di un monastero? È una che sta a fa la portiera, sta tutto il giorno seduta negli orari chiaramente pubblici del convento, del monastero, a rispondere al campanello e oggi, dato che siamo più moderni, e al telefono. Basta. Ma se tu fai una cosa di questo genere, che è una cosa, dice, divento santo rispondendo alla porta del monastero, dipende come e perché. Perché se tu stai lì, mosso dall'obbedienza religiosa, obbedienza religiosa appunto perché che è tale quando tu credi che quella cosa che ti sta dicendo un uomo te la sta dicendo il Padre Eterno, e quindi che tu fai quella cosa per amore del Padre Eterno, non per amore dell'uomo, e cerchi tra l'altro di farla con la massima perfezione possibile, anche rispondere alla porta. La opera può essere fatta in tanti modi, perché io posso rispondere alla porta, suono e dico: che vuoi? Adesso esagero, no? Scherzo. Oppure posso dire: buonasera, chi è? Sto caricando apposta, no? Qui purtroppo stiamo in radio, quindi dobbiamo cercare di farci capire, no? Però la stessa azione io posso farla in 100 miliardi di modi differenti, capite? Pensate a un prete. Dice, tutti i preti celebrano la messa, certamente, bisogna vedere come. Tutti i preti confessano, certamente, bisogna vedere come. D'accordo? È il come che Dio guarda, e quel come molte volte, se è vero che si riverbera all'esterno di noi, soprattutto dal nostro tratto, dai nostri occhi e dai nostri modi, ordinariamente è completamente nascosto. Cioè, se io dinanzi a un imprevisto della giornata faccio un atto interno di adorazione della volontà di Dio e dico: sia benedetto tu, Signore, per quello che oggi mi metti davanti, per questo imprevisto che mi ha fatto saltare tutti i piani che avevo in programma, questo è un grande atto, ma non lo vede nessuno. Ordinariamente, dinanzi a una cosa di questo genere, uno si altera, si agita, comincia a sbruffare: uffa, devo fare questo, devo fare quell'altro, non c'ho più tempo di fare niente, a destra e a sinistra, no? Questa è la grandezza di San Giuseppe. In questo San Giuseppe era un maestro straordinario. Ora, una vita esternamente semplice, normale, comune, fatta di anni di lavoro, di giorni che si susseguono con apparente monotonia. E proprio questa normalità, che è stata vissuta da San Giuseppe con queste disposizioni interiori, attraeva particolarmente il cuore di San José María e gli dava spunto per meditarci molto, molto. E quando fu introdotta durante il Concilio Vaticano II, per volontà di Giovanni XXIII, il nome di San Giuseppe nel canone della Messa, ci fu una persona che telefonò subito a San José María dicendogli rallegramenti: guardi, che appena ho sentito quella notizia ho pensato a lei e alla gioia che ne avrebbe avuto. Fu felicissimo San José María che il nome di San Giuseppe fosse giunto al canone della Santa Messa. Oggi sapete che è stato anche allargato obbligatoriamente anche agli altri canoni, no? Anche le altre preghiere eucaristiche che sono diventate di più, no? Quindi, bene, poi c'è un'altra cosa molto molto importante, il fatto del lavoro, ecco, il lavoro di San Giuseppe. Andiamo verso la conclusione. E ora ci sono delle considerazioni, diciamo così, generali, no? E sono quanto mai adatte sia alla figura di San Giuseppe, ripeto, sia ai laici. Io le cito perché questo, diciamo che, se voi sapete, ogni santo ha il suo punto forte. San José María Escrivá ha, proprio in questi discorsi che adesso fa, la sua ragione di essere e anche il suo essere stato un dono per la Chiesa. Allora, la fede e l'evocazione impregnano non una parte, ma tutta la nostra esistenza. Cioè, noi non abbiamo nella nostra vita di fede, come dire, delle nicchie, no? Allora, io ho la mia vita quotidiana, la mia vita normale, poi, non lo so, la mattina dico le preghiere del mattino, apriamo la finestra sacra, finite le preghiere del mattino, si chiude la finestra sacra e comincia la vita normale. Poi magari vado anche a messa tutti i giorni, Allora, alle 7 della mattina o alle 5 o alle 6, alle 6 e mezza di sera, apro un'altra volta la finestra sacra, faccio un po' di full immersion nella finestra sacra, poi la chiudo, e non so, la sera vado a casa e poi c'ho la moglie, c'ho i bambini, c'ho la televisione, non lo so, c'ho le cose, poi c'ho la notte e poi riapriamo la finestra sacra prima di andare a dormire e poi la mattina dopo. Non è così. Perché la fede irradia e si irraggia dal di dentro in tutti gli aspetti della nostra esistenza, compreso anche il tempo libero, compreso anche le attività ricreative, tutto. I rapporti con Dio sono necessariamente sempre rapporti di dedizione e in questo senso assumono sempre una dimensione di totalità. Quindi l'atteggiamento dell'uomo di fede è di guardare alla vita, a tutta la vita e in tutte le sue dimensioni, con una prospettiva nuova, quella che ci è data da Dio. Allora, le persone, la stragrande maggioranza delle persone che vivono nel mondo, sono persone dedite al lavoro in varie attività professionali e che, nella maggior parte dei casi, hanno dei focolari domestici. Allora, gente che è stata all'università, o che è cresciuta in fabbrica, che ha avuto, che ha intessuto rapporti di lavoro, intessuto rapporti di amicizia, collaborato a vari livelli, non so, aziendali, nella soluzione di problemi lavorativi, forse politici, forse sociali, culturali, attività di questo genere. D'accordo? Ora, tutto questo alveo, nucleo di dimensioni terrene proprio della vita laicale, dice San José Maria, non è estraneo ai piani divini. La vostra vocazione umana è parte importante della vostra vocazione divina. Ecco il motivo per cui dovete santificarvi, collaborando allo stesso tempo stesso alla santificazione degli altri, santificando precisamente il vostro lavoro e il vostro ambiente, e cioè la professione o il mestiere che riempie i vostri giorni, che dà una fisionomia peculiare alla vostra personalità umana, che è il vostro modo di essere presenti nel mondo. E assieme al lavoro, il focolare, la vostra famiglia e infine la nazione dove siete nati e chiamati. Il lavoro accompagna inevitabilmente la vita dell'uomo sulla terra. Assieme ad esso compaiono lo sforzo, la fatica, la stanchezza, come manifestazione del dolore e della lotta che fanno parte della nostra esistenza attuale, che sono segni della realtà del peccato e del bisogno di redenzione. Ma il lavoro non è in se stesso una pena, né una maledizione né un castigo. Coloro che parlano così non hanno letto bene la Sacra Scrittura. È tempo che i cristiani dicano ben forte che il lavoro è un dono di Dio e che non ha senso alcuno dividere gli uomini in categorie diverse secondo il tipo di lavoro. È testimonianza della dignità dell'uomo, del suo dominio sulla creazione, promuove lo sviluppo della sua personalità, è vincolo di unione con gli altri uomini, fonte di risorse per sostenere la propria famiglia, mezzo per contribuire al miglioramento della società in cui si vive e al progresso di tutta l'umanità. Guardate che moltissime di queste cose furono poi scritte, quasi ricopiate alla lettera, nella Gaudium et Spes del Concilio Ecumenico Vaticano II e nelle sezioni della Lumen Gentium, stesso concilio, dedicate alla santificazione dei laici. Quindi ti piace o non ti piace l'Opus Dei, ti piace o non ti piace, sei d'accordo o non sei d'accordo, tutte le leggende nere che circolano, queste parole di San José Maria Escrivá sono assolutamente normative per tutti i cristiani. Perché hanno poi ricevuto, come dire, una sorta di avallo ex post, implicito e neanche troppo implicito, da parte del magistero ufficiale della Chiesa. Non solo per il lavoro, per il cristiano, poi queste prospettive, che queste sono universali, che valgono per ogni uomo, di ogni luogo, di ogni tempo, si dilatano ulteriormente, perché il lavoro, infatti, appare come partecipazione all'opera creatrice di Dio, il quale, avendo creato l'uomo, racconto della Genesi, gli diede la sua benedizione. Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare, eccetera, eccetera. Inoltre, nostro Signore Gesù Cristo, che è venuto sulla terra, per 30 anni ha lavorato. Sono tanti 30 anni, Quindi questo lavoro assunto da Cristo diventa attività, al tempo stesso, redenta, perché Gesù ha redento il lavoro lavorando, e redentrice. Quindi non solo è l'ambito nel quale l'uomo vive, ma mezzo e strada di vera santità, è una realtà in se stessa santificabile, quindi ogni lavoro può essere santificato, e al tempo stesso santificatrice, cioè lavorando mi santifico. D'accordo? E quindi, Come si fa a santificarsi il lavoro? Oh. Il lavoro nasce dall'amore, manifesta l'amore, è ordinato all'amore. Quindi riconosciamo Dio non solo nello spettacolo della natura, ma anche nell'esperienza del nostro lavoro. Sapendoci posti da Dio sulla terra, amati da Lui ed eredi delle sue promesse, il lavoro diviene preghiera, rendimento di grazie. È giusto che ci si dica, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Allora, voi capite, vi faccio subito un esempio. Se tu lavori per l'amore di, per amore di Dio, supponiamo che sei un impiegato, tu sai che quando stai lì dentro stai servendo il Signore. Quindi le carte, gli archivi, tienili in ordine, ma non li tieni in ordine soltanto perché così fai un favore all'umana società e ai tuoi colleghi. No, ma perché Dio è ordine, non vuole vedere le cose disordinate. Se tu sei una donna di casa, terrai la casa pulita e ordinata, non perché hai le fissazioni o le manie come alcune donne che non è che stanno tutte quante, che stanno a pulire sul pulito e che hanno delle forme che assomigliano a delle psicosi per quanto riguarda la pulizia, ma quella è la casa di nostro Signore. Preparare da mangiare a tuo marito è un atto sacro, d'accordo? E tu lo fai buono, come gesto d'amore, immaginando che seduto al tavolo insieme a tuo marito, o anche in tuo marito, ancora meglio, ci sia nostro Signore Gesù Cristo. Per cui se venisse nostro Signore Gesù Cristo, penso che gli prepareresti qualcosa di buono, lo preparerà tuo marito. Questo vale per tutte le cose, d'accordo? Tu entri dentro uno studio di un professionista, o dentro un ufficio parrocchiale, guarda, se tu trovi un ambiente pulito, ordinato, le carte messe in ordine, eccetera, eccetera, hai una impressione, no? Se tu trovi la scrivania che non riesci neanche a guardare di là per vedere chi ci sta dall'altra parte, c'è un'impressione pessima. Ecco, lì sicuramente Dio non c'è. È vero, in teoria, che io potrei fare tutto quanto il precisino, tutto quanto l'ordinato, semplicemente per una sorta di mania di perfezionismo o di culto della personalità. Questo è vero. Ecco, ma ordinariamente il motivo per cui si lavora per esempio in maniera ordinata, senza lavorare né troppo poco, ma bene, è sempre l'amore di Dio, santificarsi in quello che sto facendo e santificare quello che sto facendo. Capite? Anche il lavoro ancora può essere occasione di esercitare l'apostolato, specialmente per chi lavora nel mondo, come sono i laici. Ecco, quindi tessere delle buone relazioni, oltre che una cosa molto bella da un punto di vista umano, è virtù teologale. Cioè, il modo con cui noi non dovremmo mai, e qui parlo contro di me, ahimè, e sto cercando disperatamente anch'io per quanto riguarda me stesso di correggermi, di progredire, dovremmo sempre trattare il prossimo bene, essere sempre solari, sorridenti, affabili, cordiali, gentili. E far sentire le persone accolte, far sentire le persone accettate, non mortificarle mai, non giudicarle, non farle sentire a disagio, eccetera, eccetera. Guardate che queste ultime cose che vi ho detto sono, a quello che dicono i santi, le virtù in assoluto più gradite al Signore, anche perché richiedono una grandissima ascesi, molto più grande di quella che si fa compiendo le grandi penitenze corporali, che pure per coloro che hanno questa chiamata del Signore sono cose non da disprezzare e non da ritenere definitivamente sepolte nei cassetti. Ecco, però ci vuole più ascesi per essere sempre disponibile e affabile con tutti che non per sottoporsi a digiuni massacranti. È così. Ecco. Quindi, allora, maestro di vita interiore, lavoratore impegnato nel lavoro quotidiano e fedele servitore di Dio, in continuo rapporto con Gesù, affidatogli dal Padre, a lui personalmente, quindi dandogli grande senso di responsabilità, unitamente con la Madonna. Questo è stato San Giuseppe. Allora, andate da Giuseppe, era un'espressione tratta dall'Antico Testamento che fu detta a proposito di San Giuseppe, figlio di Giacobbe, ma possiamo noi tranquillamente mutuarla per quanto riguarda il Giuseppe del Nuovo Testamento, perché da Giuseppe il cristiano impara che cosa significa essere di Dio ed essere al tempo stesso pienamente inserito fra gli uomini, santificando il mondo. Quindi frequentando Giuseppe incontreremo Gesù, frequentando Giuseppe incontreremo Maria, che riempì sempre di pace l'officina di Nazareth. Ci vediamo, se Dio vuole, lunedì prossimo, sulle stesse frequenze. Io vi saluto e vi mando la mia benedizione. Ave Maria.